Corso basico di Kabbalah, parte 1, file audio 14. L'essere umano ha determinati punti di forza e intensità della luce che si dà in vita solo entrambi necessari per il nostro pianeta. Solo qui sulla Terra è possibile per l'uomo ricevere la luce diretta o riashar. Soltanto l'essere umano può ricevere questo. Certamente vediamo sulla nostra Terra forme molto più sottili e allora sono delicati. Vediamo il regno animale, il regno vegetale e il regno minerale. E nel profondo della terra abbiamo il magma. Guardando alla terra, vediamo lo stesso disegno come nello spirituale. Qui sulla terra l'essere umano è in cima e nel mondo spirituale è in cima. Sotto l'essere umano vediamo il regno animale e possiamo guardare a questo con un più di grossolanità della luce. Il regno animale è più alto, poi il regno vegetale è il prossimo nella gamma e il regno minerale è l'ultimo, è il magma in fondo alla terra. Ma solo l'essere umano è autorizzato dal Creatore stesso a ricevere la luce diretta e a passarla ai regni sottostanti. Ora puoi vedere che un essere umano ha anche una funzione creativa. È dato all'uomo e lui può e deve fare questo. La luce rotonda è per tutti. Questa luce rotonda appartiene all'Ein Sof, alla luce infinita, e chiamiamo questa luce Or Nefesh. Questa luce è necessariamente per ogni cosa vivente qui sulla terra. E sempre sarà presente. E tutti loro stanno guardando per la luce diretta. Questa luce più superiore è più forte. L'uomo la può passare su ogni cosa che è sotto. Ogni cosa che è sotto anela per questa luce. Anche loro vogliono ricevere la luce diretta. Guarda come il Creatore ci ha fatto. Siamo proprio come il Creatore. L'essere umano qui sulla terra ha lo stesso ruolo che ha il Creatore nell'intera esistenza. Ora forse comprendi perché l'uomo può essere così troppo sicuro di sé. A volte si sente forte come un grande albero. Lui si guarda e si sente potente come il re sulla terra. Proprio come il creatore è il re di ogni cosa. Sopra di noi vediamo lo stesso. Guarda il disegno. Guarda il punto nero. All'interno di questo punto vediamo la Terra. Guarda il suo piano in modo da non diventare troppo sicuro di te. Noi pensiamo e ci sentiamo di essere i più grandi. Ma vedi quanto piccoli noi siamo realmente. Solo un punto. Un umile punto. E questo è il modo in cui dobbiamo sentirci. Umile e piccolo. È piccolo. È solo un piccolo frammento dei poteri creati da lui. Ognuno di noi deve sentire questo. Naturalmente siamo già consapevoli della forza che circonda, ma dobbiamo sperimentare molto di più. Questo non è valido solo per una persona, speciale, perché ognuno di noi è uguale. Ogni creatura qui sulla terra deve venire a questo sentimento. Non c'è eccezione, non c'è alcun vantaggio nello spirituale. Nello spirituale ognuno è uguale. Solo nel nostro mondo ci distinguiamo, ma non nello spirituale. Qui dobbiamo lavorare ognuno di noi per noi stessi. È possibile che tu possa essere scelto. Gli ebrei sono al momento in un sonno totale, considerando la loro condizione spirituale. Quindi vediamo tutti i disastri. E non solo il popolo ebraico, ma anche tutte le nazioni. Perché il popolo ebraico è l'uomo spirituale. Cioè, c'è la stessa struttura. È l'essere umano che sta tirando la luce o Chokhmah a se stesso. Per il pianeta, quando hai una comprensione in questo, capirai anche il generale. Quando capisci il principio, puoi arrivare alla comprensione del generale. Perché dentro i dettagli, il generale è racchiuso. È già presente. Quando il creatore ha creato la creazione, ogni cosa era già perfetta. Tutto aveva i suoi confini. Quando egli creò i mari, essi erano ai loro giusti posti. Ogni buca era nel posto giusto e tutti erano soddisfatti. Ma non l'uomo. L'uomo non aveva raggiunto il suo confine. E per l'essere umano raggiungere il suo limite e deve lavorare duro per raggiungere il suo confine. Il resto della creazione non deve farlo, sono già perfetti. Loro non devono insegnare questo Quindi tutto dipende dall'essere umano. L'influenza delle stelle è solo su un livello basso, su una frequenza più bassa. Lo zodiaco è lì per l'animale, persona, non per l'essere superiore. Non può confrontare i poteri del zodiaco con le forze dell'uomo che l'uomo può attrarre, con l'irradiazione che l'uomo può attirare a lui. Come ho detto poco prima, i mari sono stati creati in condizioni perfette. Non c'era la necessità per l'acqua di irrompere le sponde. E non c'era mancanza in natura. La creazione è creata senza mancanza, considerando la natura. Il mare è stato creato in modo tale che non doveva irrompere le sponde. Tutta l'acqua rimase all'interno dei loro territori, tutto era perfetto. Non c'era bisogno per il mare di irrompere fuori dalle sue sponde. Non vi era alcun terremoto o tsunami. All'inizio tutto era soddisfatto e non c'era nessuna causa per farlo, tutto era in equilibrio e poi venne l'uomo. Possiamo leggere questo in Genesi. Eppure non c'era pioggia, perché non c'era nessun uomo sulla terra. La pioggia era necessaria solo per l'uomo. Prima di questo momento non c'era qualcosa come quantità di pioggia. Solo l'uomo può chiedere per la pioggia. Questa è davvero la verità. Solo l'uomo può chiedere per far piovere. Ma l'uomo non sa più come chiedere per far piovere. Nei primi giorni c'era una preghiera per far piovere e la pioggia era là. Non più. E non abbiamo sempre il bisogno per essa. Devi sapere che abbiamo dimenticato, ci siamo persi. L'intero meccanismo è micro-macro. Le persone qui sulla Terra devono fare una preghiera. Una preghiera è uno sforzo interiore e dobbiamo fare una preghiera Ein Sof. Volgere i nostri occhi al di sopra. Questo è chiamato Man. Man significa acque femminili. Quando portiamo la nostra preghiera sopra, la nostra Man, in cambio noi riceveremo Mad, acque maschili. Mad viene da sopra a sotto. Parlo solo dello spirituale. Questo è il meccanismo del creatore installato da lui. Essa è la connessione tra l'essere umano e il Creatore. Oggigiorno abbiamo il sistema di punizione a ricompensa. Ma la punizione è lì per il bene dello sviluppo. Se questo non dovesse accadere, resteremmo come un bambino ignorante. È dato a noi, all'essere umano, portare su una preghiera, fare man anche di sabato. In questo giorno abbiamo una certa qualità, intensità, sigma, un elenco di tutti i man, ad intero genere umano fino alla singola persona, circa 7 miliardi di persone. Da questa entità il genere umano. Egli si aspetta da noi di fare man. Questa è una forza speciale della luce, la luce Ruach. Questa forza può essere chiamata su e in risposta riceve colui che ha fatto la chiamata. Ogni persona che vive su questa terra può farlo. C'erano grandi anime che potevano chiamare la luce Neshama. Ma l'espressione della preghiera, man, dovrebbe essere sufficiente per lasciare i confini tranquilli, per farli venire in pace. Cosa significa questo? Tutto viene dallo Zohar. Questo è dato solo all'uomo. Solo l'uomo può attirare questa luce forte attraverso la vera preghiera, innalzandosi fino alla fonte di vita. E in cambio ci sarà la ricezione di Mad. Mad arriva da sopra, a sotto, e è uguale al man, corrisponde al man. Stiamo iniziando dal basso. Va dal basso verso l'alto, da Sia a Ein Sof. E questo è l'unico modo in cui arriva la luce a noi dall'alto. Tutta la vita viene dall'Ein Sof e discende all'essere umano. È dato solo all'uomo per fare questa invocazione. E il regno animale è il primo regno che trarrà profitto. Imparerà da esso. Gli animali riceveranno la luce in modo inconscio. Ma questo non importa. Loro possono portarlo sulle piante, poi ai minerali e poi al centro della terra, il magma. E questo è il nostro lavoro. Per mezzo del buon sforzo dell'essere umano, l'intero pianeta viene in vita. Guarda questo tsunami. La gente stava dormendo, ma gli animali erano allerta. Non sono stati uccisi molti animali, erano in allerta. Chi sta dormendo non può essere vigile. Quando uno non fa questo lavoro, egli non realizza il suo obiettivo, quindi l'animale deve fuggire. Per mezzo della nostra preghiera, la nostra man, la luce di Ruach, può essere invocata. C'erano grandi anime che potevano chiamare una luce più grande, la luce Neshama, in favore del mondo intero. Tutto quello che noi stiamo facendo è nel favore per gli animali e le piante. Tutto quello che sta vivendo qui sulla terra trarrà profitto. Si dice spesso che siamo re della terra. Questo significa che noi dobbiamo invocare, dobbiamo elevarci alla sorgente. Quando non ci sono man, o non abbastanza man, non ci sarà mad. Noi siamo i più grandi distruttori. Abbiamo bisogno di mad. Quando l'uomo non fa la preghiera man mad, non verrà in basso. O meglio dire, quando l'uomo non fa la preghiera man, mad non verrà in basso. Siamo responsabili di ciò che sta accadendo nel mondo. Ogni disastro, ogni tsunami, noi siamo lì, gli unici a essere responsabili. Qualsiasi tempo sarà buono o cattivo, è per noi e non per il Creatore. Cerca di capire questo. Il Creatore è la qualità dell'assoluto altruismo. E questa qualità è nell'intero universo, ovunque, nella stessa forma, nel suo insieme singolare, perfetto, eterno altruismo. Lo puoi immaginare? Siamo gli unici che stanno cambiando. La nostra consapevolezza sta cambiando, ma la luce rimane perfetta, integra, eterna. Sta a noi ad attrarre il bene a noi stessi. Dobbiamo rendere i nostri desideri più trasparenti. Devo guardare in alto e non in basso. Qui sotto abbiamo l'ego, tutta la miseria, ma al piano superiore vediamo la fonte della vita. È fuori dalla mia visione. Questo è il perché devo elevarmi in alto. Sollevare il man. Devo portare il man sopra, così il mad può venire giù. In modo chiaro e puro, in modo che la luce possa riempirti. Non c'è movimento, tutto è perfetto ovunque. Non c'è posto vuoto, tutto è perfetto. Questo vuoto, la completezza, consiste di tutte le specie di vestiti. A noi è data la matrice di Yud-Hei-Vav-Hei. il nome del creatore, Tetragrammaton. Nel greco antico. A noi è dato questo lavoro, ma è anche data a noi la libera scelta. La libera scelta che abbiamo è enorme. Noi siamo i re di questo pianeta. A noi viene dato il governo. Devi sapere che il Creatore ci ha dato un'enorme quantità di autorità. Elevare se stesso significa rendere i tuoi desideri più trasparenti, più puro, significa rendersi visibili per la fonte di vita e dare una preghiera man dal basso verso l'alto. Questo è ciò che intendiamo quando diciamo sollevarsi, e quando lo fai, il man può venire giù. E quando lo fai, il man può venire giù, il compimento. Non abbiamo i poteri per controllare e gestire la natura. Noi stiamo dipendendo sulla MAD. Questa luce deve penetrare il nostro pianeta. E noi dobbiamo svegliarci da sotto e attirarlo al basso. Siamo creature libere. Quando stiamo facendo questo. E non importa se una persona non lo fa, allora lo raddoppi. Non piangere se vedi un'altra persona che non lo fa. Non incolparlo. Ma lavora di più. Raddoppialo. Quando un'altra persona non fa questo, il punto nel cuore non è stato svegliato. Devi sapere. Dall'alto lo sveglieranno. La persona non è da incolpare. E non sei te che devi criticare. Non criticare né decidere per un'altra persona. Devi fare il tuo lavoro, anche il doppio. Fai quello che puoi fare. Una grande persona può portare su Man. Un grande cabalista, o colui che è una persona retta, può fare questo. E questa è un'enorme correzione per il mondo. Quando qualcuno muore, c'è molto dolore. Ma non è detto. Quando una persona così grande muore, dà così tanto, in quel momento oltrepassa il suo confine. E in quel momento può mandare una gran quantità di MAD sulla terra. Questo succede 3 giorni dopo la sua scomparsa. Significa che succede in tre fasi. In tre fasi sta inviando sotto un'enorme forza, e questa forza non sarà mai persa. C'è C'è una legge che ci sta dicendo: ogni madre che è venuta sotto non scomparirà mai. Resta per sempre con noi. Ora la terra è proprietaria di questa forza e essa non scomparirà mai più. Rimane per sempre su questa terra. È la nostra eredità. Quello che aveva fatto il grande uomo saggio una volta, in un certo modo siamo il loro prodotto. Tutti noi ne facciamo uso. Siamo tutti dipendenti l'uno dall'altro. E allo stesso tempo siamo indipendenti l'uno dall'altro. Ma abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Il Creatore vede solo l'insieme. La preghiera è la forza della preghiera incorporata in tutto il man. Tutti i desideri sono i punti di forza di Adam. La forza di Adam è in ciascuno di noi. Adam non poteva farlo da sé. Questa fu la sua caduta. E ora il suo compito è diviso. Siamo tutti carie della sua forza. Il suo lavoro si riversa in noi in modo che il lavoro può essere finito. Ecco perché oggi abbiamo così tante persone. Uno ha carenze e un altro dà extra. Quando una persona trascura questo lavoro, il lavoro su se stesso, la sua anima sarà divisa in pezzi più piccoli dopo la sua morte. Ma in ogni parte abbiamo il progetto di questa unica anima. Tutto è perfetto, ma il lavoro deve essere fatto. Il contributo può essere più piccolo di intensità. Quindi, una prossima generazione può continuare con questa parte. Cerca di rendere la tua anima perfetta. In tal modo, l'intera creazione sarà soddisfatta. Questo è ciò che stiamo facendo. Ma dipendiamo l'uno dall'altro. L'uomo ha del lavoro da fare e la sua anima prenderà parte alle correzioni. Arriverà alle correzioni assolute e non dovrà tornare. Quando torna, è la sua propria decisione. Soprattutto per aiutare su base volontaria le persone qui sulla terra. Ma non è necessario. Puoi finire il tuo lavoro. Tu puoi fare le tue proprie correzioni. Devi fare le tue correzioni, ma in un certo modo siamo tutti dipendenti l'uno dall'altro. Ma come? Vorrei raccontarti una breve storia. C'erano diverse persone che avevano comprato un biglietto per una barca. Tutti i passeggeri sono nella barca. È un passeggero. Ha con sé un trapano e quando è seduto al suo posto, fa un buco sotto il suo posto. Ovviamente c'è una reazione delle altre persone. Cosa stai facendo? Ma l'uomo dice: non sono affari tuoi. Ho comprato un biglietto per questo posto e mi è permesso di perforare. Ma le altre persone rispondono: ma poi la barca affonda. Ma l'uomo non ha interesse. Per lui il suo posto è interessante e vuole fare ciò che vuole fare. Siamo tutti seduti su questa barca. Ognuno di noi lavora in modo indipendente, ma dipendiamo l'uno dall'altro. I disastri stanno accadendo a causa nostra, non per mano del Creatore o della natura, qualunque sia la scienza che ti sta dicendo. Siamo responsabili di ciò che sta accadendo. Dobbiamo avere buone intenzioni. Buone aspettative. Dobbiamo essere vigili, vivere secondo le leggi dell'universo. Questa è la nostra responsabilità. Dobbiamo attirare la luce diretta o riasciar in modo che anche gli animali ricevano le benedizioni. Anche questo ebbene, lezione 14. Tenere purificazione interiore. La verità è che quando l'uomo ha il suo vero desiderio, riceverà l'aiuto dall'alto. Qual è l'aiuto che riceve? Gli sarà mostrato a lui in un certo momento che non va bene. Così lui riceverà pensieri e conoscenze che sono contro il lavoro spirituale. Questo sta accadendo solo per mostrargli che non è completamente unito al Creatore. E più ci prova, più vedrà costantemente che lui è molto più lontano dalla santità di altri che si sentono in piena connessione con il Creatore. Questo è lo scritto del figlio di Yehuda Ashlag. Te lo spiegherò. La prima condizione è il vero desiderio. Il desiderio deve essere completamente l'intensità Kavanah del desiderio è molto importante. In un certo senso, questa è la prima richiesta di chi hai bisogno per ricevere l'aiuto della forza più alta, il vero desiderio. Guarda la prossima frase. Vedi il controverso. L'aiuto sarà quello che gli sta mostrando a lui quel che non va bene. È questo aiuto? Vogliamo essere addolciti e non deve essere dimostrato che siamo più lontani dal nostro obiettivo. Solo nella spiritualità quello è possibile. Non puoi farlo perché non sei ancora corretto. Per questo la vedi come qualcosa di controverso, ma visto dall'alto non lo è. Prova a vederlo in questo modo. Dall'alto ti stanno mandando aiuto. Aiuto significa dall'alto uno ti mostra che non si è a posto in quel momento. Testo. E lui riceve i pensieri e le conoscenze dall'alto che sono contro il lavoro spirituale. Questo sembra così controverso. Vuoi essere aiutato? Dall'alto vuoi ricevere i punti di forza? Vuoi sentire che tutto va bene? Vuoi essere stimolato? E ora senti che sei lontano dal lavoro spirituale. Ma perché? La prima frase rende già chiaro. Così vedrai al vero desiderio. Tu non hai la forza. Ti è ignoto il tuo vero desiderio. Ecco perché ti mostrano dall'alto che tu hai ancora poco tempo. Fino al momento in cui riceverai il vero desiderio. Solo il vero desiderio riceverà la risposta. Testo. Questo sta accadendo per mostrargli che non è completamente unito al Creatore. Egli sta mostrando che non si è in conformità con il gradino più alto. Il Creatore versò nell'universo l'assoluto altruismo. Diamo un'occhiata a questo in un altro modo. Cosa o chi è il Creatore? Il Creatore è ogni momento più alto al livello che io ho in questo momento. Il Creatore è sempre su un gradino più alto del passo in cui sono in questo momento. Non importa il momento, ogni successivo passo che non posso ricevere, dove mi manca la forza, è per me il Creatore. Fino al momento in cui divento consapevole di questo passaggio, e inizio a prepararmi per il prossimo. Quindi, per ognuno, il Creatore è su un altro passaggio. Sii consapevole che è lo stesso Creatore. Per lui tutto è eterno e immutabile, ma non per noi. Per noi Egli è ogni giorno differente. La nostra consapevolezza sta cambiando e è per questo che abbiamo esperienza di Lui tutto il tempo in modo diverso. Quando stai imparando la Kabbalah, ogni giorno ricevi un'altra immagine dal Creatore. Il Creatore è la mia propria consapevolezza su ogni passo duro, al più alto passaggio. Ho bisogno di un po' di resistenza per il Creatore? Una domanda, eh? Ogni passaggio è dentro di me. È mio e appartiene alla mia forza interiore. Sperimentare il Creatore appartiene al lavoro della forza interiore. Il lavoro che faccio ogni giorno di nuovo per sviluppare me stesso per il prossimo passaggio, questo è il Creatore. Questo è il mio Creatore di oggi. Quando puoi vedere e capire questo, è impossibile per te non giustificarlo. È qualcosa da me. Non è qualcosa fuori di me. Non è importante come lui guarda. È tutto su come sperimento lui. È tutto circa la mia conformità con le sue qualità. E quando ho portato le mie qualità in conformità, ogni giorno un po' di più, divento più elevato in un nuovo passaggio e io sperimento il Creatore in un modo nuovo. Testo. E più lui prova e si lamenta, più vede costantemente che lui è più lontano dalla santità. Questo è come un cabalista agisce. Lui sente gli altri dire che loro sono pieni con suo amore. Ma un cabalista sente la mancanza. Strano, controverso, ma perché? Nel nostro mondo abbiamo la destra e la sinistra. Ma a un livello superiore c'è l'unità. Questa è la contraddizione. Quando cerchiamo di capire qualcosa dal mondo spirituale con il nostro intelletto terreno, la contraddizione sarà il risultato. Quindi sperimentiamo la contraddizione. L'aiuto dall'alto esiste. Solo questo aiuto è che mostra che uno non è a posto. E per una persona normale questo non è l'aiuto. E la persona terrena, e soprattutto l'uomo occidentale, vuole una risposta diretta. Egli chiede solo dammi, dai a me. Ma nella Kabbalah noi siamo quelli che dobbiamo fare e dobbiamo venire in conformità con le sue qualità, che è dare. E questo è un vero lavoro. Testo. E lui si lamenta e non può giustificare il comportamento del creatore come lo considera. E questo lo ferisce. Perché non è in unicità con creatore? Nella sua consapevolezza vede che gli manca la santità. E anche quando riceve un risveglio dall'alto, un risveglio che lo nutre, lui cade direttamente giù. Più si eleva, più una persona si avvicina al creatore, lui esige sempre di più. E lui è capace di esigere dal creatore. Il creatore è a un passaggio più alto del livello di questo momento. Sto lavorando, mi sento connesso con il passaggio superiore, ma non l'ho ancora ricevuto. Ma sento la connessione, anche se un pochino. Perciò io sento che potrei chiedere di più. Voglio salire sempre più in alto. Voglio sperimentare, diventare consapevole. Ho bisogno di questo per conoscere questo passo. La conoscenza è esperienza, non qualcosa con la nostra mente. E quando io sento questo, so che potrei chiedere perché il Creatore è al passaggio superiore. In questo nuovo livello ho anche il desiderio di diventare uno con lui. Questo è il creatore, è il mio creatore. Non è importante quello che le altre persone possano pensare o sperimentare. Quindi, non interferire con gli altri. È tutto sulla tua esperienza. Sei tu stesso, che devi avvicinarti al Creatore nel tuo modo speciale. Hai indubbiamente un'altra immagine del Creatore. È il tuo prossimo passo. Questo è il desiderio che deve essere dentro di te. Sei desideroso per fonderti con il passo superiore. Fondersi significa che capisci. Tu comprendi. Allora sai come le quantità, come le qualità in quella fase erano dove per molto avevi desiderato. Non comprendo. Allora sai come le qualità in quella fase erano dove per molto avevi desiderato. Così. Tu senti la vita, tu sperimenti. Tu capisci quello che senti. Questo è il significato della fusione. Capisci il prossimo passo. Ma devi sapere, per ognuno è la stessa scala, solo l'esperienza della scala è speciale, riferito all'esperienza di ogni persona. Testo. Lui si lamenta sempre. Ora tu sai, il creatore è il prossimo passaggio, più alto, dentro di te, un pezzo del tuo interiore. È un pezzo che tu non capisci ancora. Non c'è esperienza, quindi non puoi giustificare. Siamo l'ultima generazione, prima della venuta del Messia. Questo è il tempo per la rivelazione della lingua. Il prossimo passo è un pezzo del mio interiore che deve essere portato in conformità con la luce. Il nuovo passaggio. Quindi, chiediamo e ci lamentiamo perché vogliamo venire all'esperienza. Quando tu sei sensibile, quando tu sei sensibile, puoi giustificarlo. Il problema è, uno non giustifica e per di più fa altre immagini, idoli, eccetera. Ma è un pezzo del tuo interiore che tu non hai ancora sperimentato, quello che vuole essere giustificato. E questo è da dove tu hai paura. E naturalmente può essere terrificante. Nei primi giorni era tutto coperto e ora vuoi sperimentarlo e sentirlo. Si sente come una nuvola pesante o come oscurità. Perché? Non hai la forza di sperimentare questo piccolo pezzo del tuo interiore. Perciò giustifica sempre il creatore, perché ti stai sforzando per il passo più alto. Tu vuoi fonderti con lui. A lui ti sta aiutando. Giustifica sempre il suo aiuto. Puoi solo andare più in alto quando hai l'esperienza. Il passo più alto è solo l'esperienza del creatore a un livello più alto del livello che hai ora. Vedi com'è semplice. Ora sai cosa devi fare. Giustifica sempre le tue condizioni, la tua situazione, perché ti stai sforzando per il passo più alto. E non appena sei arrivato a questo livello, sentirai l'oscurità. E ancora una volta devi iniziare con la giustificazione. Di nuovo c'è il lamentarsi e il domandare perché tu vuoi andare oltre, è più lontano. Finché non hai raggiunto il passo più alto e la storia continua. Dai inizio all'esigente perché tu hai il sapore dello step più alto. Sappi nello spirituale che sarai aiutato perché è suo desiderio che tu verrai sopra. Prima c'è il gusto e poi la crescita. Tu andrai più alto e più alto, questa è la reale crescita. Vieni sempre più vicino al Creatore e ogni volta tu incontrerai Lui in ogni nuovo passaggio. Quando tu appena inizi, Lui sembra molto severo, vale a dire, solo nei tuoi occhi, ma in verità Lui ti sta stimolando. Ti sta aiutando a venire più in alto, e quando vieni più in alto, sai, anche Lui sta mutando. Ossia, solo nei tuoi occhi. Ora tu sei uno che vede altre qualità in Lui. Perciò puoi domandare perché hai fatto un ottimo lavoro. Ti sei comportato in conformità con una parte di Lui, con le sue qualità. E si vuole gustare di più, si vuole crescere. Quindi tu puoi chiedere. Tu sei colui che sta arrivando più in alto e non c'è più solitudine. Solitudine? Questo sei tu e il nuovo passaggio successivo. Non puoi rimanere nel precedente livello, ma ti manca la forza per il prossimo passaggio più alto. E ora senti questo nuovo step. Il nuovo passaggio ti chiama. Vieni da me. Vieni da me. Ma il problema è che non sai come. Ti manca la forza, quindi devi essere molto sensibile e giustificare questa sensazione, perché questo nuovo passaggio più alto è anche parte di te. Non che ci sia in qualche parte qualcosa come un Dio. Non qui o là ma dentro di te. Ciò che stiamo imparando riguarda solo l'interiore. Tu sei l'interiore. Conoscere Dio significa familiarizzare con te stesso. Hai solo a che fare con il tuo interiore e non l'immagine fatta dall'essere esterno. Devi trattare con la tua propria progressione, il tuo proprio obiettivo, per venire in conformità con la luce. La luce, dico, la luce di fronte a te sta splendendo, come un passaggio più alto e nuovo. La luce ti sta facendo l'occhiolino. E più impari sul sistema di controllo, tu sai come funziona, e poi ti trovi nella situazione ad aprire te stesso per quello che può venire a te. Ora puoi venire all'esperienza perché sai come funziona. Questo è il lavoro che devi fare, passo dopo passo. Dopo aver dimostrato che sei in grado per questo lavoro, il Creatore ti darà lavoro da fare. Ma solo quando tu dimostri a lui di essere capace, è così che funziona.